riescano a superare la Svizzera, se no gli tocca fare le altre partite di qualifica, diciamo. E infatti è proprio quella, sono tutti spremuti, non ce la fanno più i giocatori, sono molti, sai cosa dire, molti, sono ormai molti sepolti, non ce la fanno più. Se continuano così, vedrai, più di uno ci rimane in campo, te lo dico io. Poi il Covid, sono rimasti fermi. Dopo il Covid che hanno cominciato a giocare, cazzo. Tutte le cose assieme, cazzo. Tutte in 3 mesi, ma stai scherzando, cazzo. Mica da suicidio, mica, cazzo. Non hanno avuto... io penso abbiamo avuto solamente una settimana di ferie per andare a Bagasse, cazzo, a sbagarsi, perché io penso con la moglie che non avrebbero fatto proprio niente. Quelle sono andate a Troie, per almeno gli avrei detto: Mancini, andate a cosa, il circolo è aperto lì, andate, sfogate, fate quello che dovete fare, cazzo. Comunque già è vero, dai. Troppe partite, ma lo sai cos'è quando il calcio diventa così un business per la TV, la TV privata soprattutto adesso, no? E le TV ti chiedono per i diritti a dire sì, io ti trasmetto le partite, ti pago tot, però tu mi devi fare più competizioni, più gare, eccetera. E alla fine poi i risultati sono questi, che ci sono giocatori che sono spompati completamente, non ce la fanno più perché hanno troppi impegni tra le loro nazionali e poi tutte quelle partite che abbiamo detto, le varie competizioni europee che ci sono, non ne usciamo più. No, arriveremo a un certo punto, come te lo sto dicendo, ne crollerà più di uno internazionale, ne crollerà, non ce la fa neanche a fare 90 minuti, te lo dico io. Se arrivano, guarda, ai rigori siamo fregati, più di uno lì o esce di testa, non ragiona più, si caga sotto, si caga. Stavo guardando la temperatura esterna, abbiamo 11 gradi a Sassari, però stanotte mi sa che ritorna la pioggia. E domani piove tutto il giorno, mi sa. Sì, giornata piovosa. C'è anche pure il temporale domani, figurati. L'altro giorno sono uscito, sono andato all'ospite tutto nero, giunto, cazzo, questo cielo nero che c'è. Ma proprio nero, come il carbone, YouTube. Stasera non scenderà, invece niente, ha fatto solamente un paio di turni. Dopodiché è sparito tutto. Adesso stasera stavo guardando il meteo radar, c'è un vortice, c'è in pratica una specie di ciclone che si sta formando in mare oggi, poi domani mattina non c'è più, perché l'ho guardato, perché se dovesse arrivare una cosa del genere ci fa groghi a noi. Davvero, adesso stanno diventando anche pericolosi. Comunque stamattina sono andato con mia moglie da Bricoman per comprare materiale, perché stiamo rifacendo un bagno a casa di mia suocera e quindi stiamo prendendo il materiale lì perché non ci vogliamo spendere chissà che cosa, no? E abbiamo lasciato la macchina fuori, era una bella giornata. Quando siamo usciti, abbiamo impiegato circa un'oretta e mezza da Bricoman, la macchina sotto il sole, c'erano 24 gradi, non potevi stare dentro col giubbotto, mi sono dovuto fermare e togliermi il giubbotto perché c'era da morire dal caldo. Poi a volte esci la mattina presto e ci sono anche 7, 8 gradi, 9 gradi, capito? E anche tutti questi sbalzi ci stanno crepando con la cervicale e queste cose così, troppi sbalzi di temperatura. Non va bene la cervicale, che è proprio, guarda, mi codico a letto. Per dire, se io sto dritto, tranquillo e sono in movimento, non succede nulla. Se io poco a poco mi dovessi coricare nel letto di camera da letto e mi giro nel cuscino e comincio a girarmi tutta la stanza intorno, sia a destra che a sinistra, devo stare al centro, hai capito? Poi ieri notte c'avevo i brividi, non ho capito perché. La stessa cosa ci sono anche messo a vedere ieri notte. Mi sento da ieri notte dove dice con i brividi, come tipo scossi mi ha detto. Mi ha detto guarda che Giovanni, io la stessa cosa, stamattina non riuscivo neanche a alzarmi dal letto. Infatti sono andato stasera, sono uscito alle 2:30 o 3 a farmi la spesa perché c'erano più di 20 gradi. Si stava benissimo, sono uscito con il giubbotto, stava veramente bene. Poi sono entrato a casa e vedo un freddo ugare, perché ormai le stanze non tengono più calore, capito, le mansarde, quindi tengo il freddo notturno. E quindi siccome non uso stufa io, perché se uso la stufa guai, incomincia a essere tutta dolore io, e stufa non ne uso in camera mia. Io quando rientro a casa, a Simona glielo dico sempre, se devi usare la stufa, usala tu, basta che a me me la spegni, non la prima. Se no, in camera a letto, non c'entro, gli ho detto. Per stare la mattina a dolore, alzarmi a dolore, che non riesco neanche a muovere le gambe, gli ho detto, non c'entro. E la cervicale è una brutta bestia, perché già lo so, una volta mi ha preso a me l'attacco. Praticamente se mi abbassavo, mi alzavo di colpo, mi veniva il capogiro. A letto, come mi giravo da una parte all'altra, capogiro. E mi sono anche spaventato perché non riuscivo a capire cosa fosse. Io pensavo fossero problemi di pressione, che ne so. Poi sono andato dal medico e mi ha detto, ma hai preso freddo, è qua, è là, eccetera. Ho detto, sì, in effetti, avanti ieri, così, ero in campagna, eccetera, c'era questo vento freddo, un po' di tramontana. E sono rimasto un'oretta all'aperto, no? Ho preso l'indomani, mi ha crepato, non riuscivo neanche a alzarmi dal letto, mi girava tutto quanto intorno e mi ha prescritto gli antinfiammatori, il tipo l'Aulin, praticamente uno ogni 8 ore per 4 giorni consecutivi. Dice anche se ti passa continua a prenderli, perché praticamente l'infiammazione della cervicale ti preme sulle vertebre vicino al collo e lì c'è una vertebra che è collegata con la parte alta del cervello, no? Per l'equilibrio eccetera, e ti dà questo coso di capogiro a seconda di come ti muovi, anche stando a letto e girandoti da una parte all'altra, capogiro da paura. E a me me l'ha fatto un giorno, ho cenato dopo che avevo mangiato la pizza e cosa del genere, vado in frigo, prendo la birra e mi sono inchinato. Cazzo, mi sono visto cadere in terra da solo, come se fossi svenendo, hai capito? Mi sono trovato in terra e mi sono graffiato la fronte, mi sono graffiato, mi sono fatto un taglio alla fronte, figurati. La cervicale è una cosa allucinante con me, mi ha fregato già 2 volte, una volta me l'ha fatta anche in bagno, la stessa identica cosa. Sono caduto e sempre sopracciglio, mi ha crepato il sopracciglio, mi hanno messo 4 punti, mi hanno messo a pronto soccorso. Micidiale, ci devi stare attento comunque, perché se ti vengono questi attacchi, quando ce li hai devi stare tranquillo, seduto al divano, ma soprattutto ti devi far consigliare dal medico e fare la terapia subito con gli antinfiammatori, se no non esci più, ti dura settimane anche, invece con l'antinfiammatorio magari dopo il secondo giorno stai già meglio, lo prendi per 4 giorni consecutivi e poi ti devi riguardare sempre il collo, coprirlo quando esci fuori, soprattutto d'inverno. Io da quando sto facendo così, grazie a Dio non me ne è più venuto di questo attacco, ma la volta mi è venuto perché ero rimasto troppo all'aperto, al freddo, capito? E la stessa identica cosa era successa a mia moglie qualche anno fa, la nausea, addirittura che gli veniva la nausea talmente forte che doveva andare in bagno a rimettere, capito? E anche quello il medico gli aveva detto che era un attacco di cervicale, anche lei vedeva tutto a pallini, come si girava nel cuscino, vedeva tutto girare, 2 giorni buttata a letto così. Sì, non è solo quello, no. A me mi è venuto più che altro con a parte il freddo quando uscivo in moto, poi ho avuto una caduta in moto io in Vellante, quando c'era il bacucco all'aperto, lì sono caduto nell'angolo proprio di fronte all'edicola come un imbecille, perché aveva appena piovuto. Ho fatto la curva neanche a 10 metri, come ho piegato le ruote non ho tenuto, sono caduto in terra come un imbecille, mi sono graffiato il ginocchio, ma il piede, ma lì per dirlo non... Io avevo allora 25-26 anni, non c'avevo nulla, ho preso i piedi e sono usciti fuori, ho detto beh, ti sei fatto male, aspetta chiamo l'ambulanza, no, ho detto guarda, non c'ho niente a fretta, non c'ho niente, ma l'indomani, cazzo, mamma mia, l'indomani. Mi sono pentito di aver chiamato l'ambulanza e fatto portare a pronto soccorso. Se fosse andato a pronto soccorso mi sarei fatto i soldi da parte del comune, come minimo. La moto non si aveva fatto nulla, la verità, perché sono caduto, a 10 sono caduto. Capito? Come sono caduto ho fatto tipo strappo al collo, perché la testa non l'ho sbattuto in terra, capito? Perché ho messo la mano in terra. Però lo strappo che ha fatto il collo di colpo mi ha provocato qualcosa, poi vabbè, l'umidità, dove avevo buttato parecchio tempo fa via San Donato, eccetera, eccetera, mi ha crepato del tutto. E adesso mi vengono queste cose qua, anche la nausea mi viene parecchie volte. Capito? Quindi figurati, l'unica cosa, guarda, quando me prendevo per dire, scendevo al bar, mi pigliavo una birra in chiusa, la bevevo e mi scaldava il, come si chiama, e stavo bene tutto quanto il giorno, senza mal di collo, senza niente, e non mi faceva nessun effetto, né nausea né niente. Ho capito. E a proposito di cadute in moto, ti stavo dicendo stamattina quando poi stavo rientrando da Bricoman, praticamente sono andato al deposito che è a Caniga, no? Dopo la motorizzazione, rientrando a Sassari sulla sinistra, prima diciamo di trovare la ferrovia eccetera, no? Vado lì a ritirare questo materiale, poi stavo rientrando a casa proprio alla rotatoria lì sul Tanit, tutte le macchine incolonnate, ho detto cazzo, qua c'è incidente. Ed era una signora in fuoristrada che ha praticamente colpito uno col motorino, e verranno i vigili, l'ambulanza, tutto il traffico bloccato, poi la gente che passava piano piano a guardare, e non c'era niente da guardare perché il ferito in moto l'avevano già portato via, e che c'era la municipale facendo i rilievi, no? C'era questa signora lì parlando, ho visto uno che scriveva, faceva il verbale, tutto il traffico bloccato, lì sono rimasto più di 20 minuti in fila. Perché così, quando usavo la moto io, passavano le macchine tranquillamente, non ne fregava nulla a nessuno, capito? Loro erano in macchina e loro soppassati, buttate l'intera, buttate lo specchietto, no? Hai capito? E così fanno tuttora. Se tu sei in moto, sei in motorino, bello tranquillo, che lo stai facendo niente di male, passa questo, perché a Sassari c'hanno quella mania, mi dicono, come a Cagliari, la guida veloce, capito? I primi patentati, quindi pigliano un'unità e passano sparate, ti tocca lo specchietto della lampada in terra, la bombiglia è gennandone. Oppure c'è quella signora che mettono in bambita, cazzo, prende, cazzo, non ti vede, perché vede, guarda solo davanti, non guarda gli specchietti, e te le butta in terra. Ho capito. Antone, ti volevo chiedere, per caso Natalino l'hai sentito in questi giorni, oggi o ieri in radio? Perché l'altro giorno che parlavo con lui, poi a un certo punto ha dovuto chiudere e dice che stava disturbando, non so, e ha chiuso tutto, poi non l'ho più sentito. Sì, è entrato stamattina, l'ho sentito io. Ah, ok, cappa. E perché io non l'ho più sentito, avevamo un discorso aperto l'altro giorno, parlando, poi alla fine abbiamo scoperto che siamo anche parenti. A volte capita. Ma come sai, mi sei anche parenti, cugino, magari, cosa leggere, primo grado, secondo grado. Hai capito? Sì. così parlando, non mi ricordo come è andata a finire qua, eccetera, no, mia nonna era di Sassari, qua e là, eccetera, no, conosci questo, c'era anche Claudio con noi chiacchierando, se conosci questo tipo, Preti, quelli di Sassari che avevano il coso del ferro, ho detto, quello è mio parente, e cosa, Natalino che era in radio, ha detto, dice anche un mio parente, dice, non siamo, ho detto, mia nonna era di Sassari, Melis, dice, anche io mi chiamo così, e poi alla fine, dice, sì, già ho capito chi sei, praticamente ci siamo ritrovati in radio come parenti, capito? Già così. C'era anch'io parenti CB, cioè mio cugino mi aveva venduto i baracchi a me, ma averlo di comprarmelo io me l'ho comprato, figurati, baracchino alla prima comunione, no, alla cresima, pesa, non alla prima comunione. Sono entrato nel 74, figurati, me lo ricordo ancora, mia madre, figlio mio, mi sono pentito di averti comprato questo aggeggio, mi hai rovinato, mi hai, diceva sempre, mi hai rovinato comprandoti questo baracchino. No, per fortuna non ho avuto nessuno che mi diceva cose del genere, perché quando ho iniziato io a Bonorva la mia famiglia si erano già trasferiti, noi avevamo la casa, ci abitavo solo io là a Bonorva, capito? Per cui avevo la casa tutta a mia disposizione e praticamente a 18 anni avevo, non mi ricordo, l'avevo visto, mi era venuta la passione del baracchino perché quando ero ragazzo facevo le stagioni a servizio antincendio, no? Con l'autobotte, quelle regionali della forestale, e là c'era la radio ovviamente sull'autobotte, e da lì ho iniziato a vedere come era fatta la radio, come trasmetteva, come si collegava, come era fatto il collegamento con le vedette, eccetera. Poi leggendo tra una cosa e l'altra avevo visto che c'erano queste radio CB, eccetera, che era facile fare la domandina per avere la, avevo iniziato con la prima radio, me l'ho messo in regola e ne avevo fatto una stazione coi controcazzi a Bonorra, perché avevo un terrazzo enorme dove addirittura nei lati in alto c'avevo dei pali di sostegno che servivano per la biancheria, ma erano di quel ferro zingato buono, grosso, non so da quanto fossero, da almeno da 80, pieni di cemento, per cui lì tu potevi attaccare qualsiasi altro palo, capito, di sostegno, e lì siccome il terrazzo era grande, era roba di 50 metri quadri di terrazzo, e mi avevo autocostruito un dipolo di quelli filari, pompavo un po' di watt col lineare, facevo un sacco di collegamenti, però non disturbavo nessuno perché le antenne TV ce le avevo distanti, la casa era alta, era anche isolata, per cui non avevo problemi, capito? E da allora me la sto trascinando sempre questa passione delle radio. Ma io invece abitavo in Pienezzetto, ho cominciato in pratica nel 74, prima del Secio nel palazzo, il baracchino ce l'ha avuto, quello del primo piano, un ragazzo del primo piano, parlava lui, che c'aveva la bomba piazzata nel terrazzino, poi c'avevo Fancillo, l'avrei conosciuto senz'altro, quello che faceva la riparazione del servizio della Grunting, in pratica c'avevo Fancillo, poi dopo Fancillo avevo installato io, avevamo tre CB, tutte e tre nello stesso palazzo, figurati, una primo, l'altra piano terra e io all'ultimo. C'erano due Grand Prix installate e una boomerang. Eravamo in tre che parlavamo tutti e tre dello stesso canale. Dopo che era andato via Fancello, aveva preso era venuto questo Giuseppe Altamura, che vendeva libri della didattica moderna, e in pratica gli era venuta la passione del baracchino dopo che si aveva comprato la palazzo, e in pratica lui usciva con una Tantelle, io avevo la BA27 e lui usciva con una Grand Prix, e eravamo uno attaccato all'altro, tutti e due abitavamo tutti e due all'ultimo piano, figurati tu, quindi a voglia poi di fronte a casa mia c'era un altro che parlava baracchino, ero tutto pieno di cibi, io lì in Verizzetto. C'era uno lì in via, di fronte a Piro, l'officina metallica, poi una ragazza modulava da via Monsignor Sava, poi c'era Giuseppe Benatre in via Napoli, poi c'era tutto la cerca di Amatore che c'è in via Napoli, tutto pieno ero in pratica io. Poi ce n'era la Monserrato, tutta la zona mia era tutta piena di cibiera. E in passato ce n'erano parecchi, pensa che io abitavo a Bonorva, che era un paese piccolo, insomma, di allora faceva 5.000 abitanti, adesso malapena arriverà a 3.000, se ci arriva pure. E sì e no, c'erano tre persone che avevano il baracchino solamente. Era uno il figlio del medico, dell'ufficiale sanitario, no, che aveva lo stesso, anche lui una grand plane sul tetto, però aveva il terrazzo grande, quindi quello era. Poi c'era un altro che aveva un laboratorio di riparazione TV, che faceva, aveva anche la patente di radioamatore, no? Gianni di cognome, come faceva? E praticamente io ero sempre nel laboratorio suo con lui, già aggiustami questo, potenziami questo, non so se ti ricordi i quarzi che si usavano allora, che c'erano pochi canali, le vecchie radio, no? E stavo sempre lì dissaldando quarzi per avere più canali nelle radio che c'erano un tempo, e passavo le giornate così da ragazzo d'inverno, soprattutto che non c'era niente da fare. Capivo di sì. Era un divertimento, era. Io rimanevo anche quasi 15 ore mi attaccato a baracchino, che rimanevo un'ora solo. Mi portavo anche baracchino a scuola. Dopo che ho finito la terza media ho fatto l'INAPRI e in pratica il primo anno ho fatto come elettricista, il secondo anno ho fatto il tecnico. Allora prendevo e mi portavo il multimodem 3, lì mi sono costruito l'antenna, mi sono costruito, parlavo direttamente, lasciavo il baracchino lì, lasciavo e parlavo direttamente alla scuola. Dopodiché addirittura il mio professore ha inventato il CB anche lui. Quando ha visto a me, gli è piaciuto il baracchino, dice adesso me lo compro anche e me lo tengo anch'io. Figurati. Ha giocato tre anni me lo sono fatto. Sempre con baracchino appresso. Oh yeah. Per carità. Aspetta che arrivo subito, vado a fare la pupù. E me, dai, già sono qua in ascolto, non ti preoccupare. Uiaia, sono entrato. Mi sa che oggi è sabato, non c'è molta gente, che sono tutti impegnati con pizzate e cose del genere. Niente, sta mangiando la pizza. Che io oggi mi sono mangiato la pizza a casa, eravamo in tre, che mia figlia è fuori, infatti tra un po' devo uscire alle 11, devo andare a prenderla, quindi sto un altro pochino, poi esco, magari se mi senti poi già sono in macchina, attacco in macchina se riesce a sentirmi. E poi prima c'era Claudio, ma ha chiuso perché andava a mangiare la pizza, che era rientrata la figlia, ha detto. Roberto lo stesso, mi sa che ha chiuso. E era entrato Fabrizio, poi non ho sentito altri. E infatti è entrato Fabrizio poco fa e poi non sento neanche, mi è suonato neanche io. Ti ho chiesto di Natalino perché l'altro giorno prima stava parlando eccetera, poi a un certo punto no, Natalino ha chiuso perché ci stava disturbando, ha chiuso tutto qua e là eccetera, ho detto che ero preoccupato, ho detto magari gli chiamano qualcuno a controllarlo poi. Lui ha problemi, capito, c'è l'antenna troppo attaccata all'antenna TV di 1 e quindi e quello è il problema, capito? Io disturba per quel motivo lì. Non ci può fare nulla purtroppo. Cioè, sono passato anch'io su quello, non è solo lui, no? Su queste storie di disturbi della TV. Io l'unica cosa che ho fatto è quando insomma per la televisione del condominio, ho preso, mi sono girato le balle, ho preso e ho messo la centralina a manetta. Tutto intanto non volevano più l'accidente, sono salite sopra, hanno spaccato il trim. A quel giorno, dopo che hanno cambiato la centralina, dicevano: sai Antonio, che avevi ragione, la centralina era effettosa. E ho detto: visto, hai detto, meno male. Aspetta, mia sorella, 2 minuti. Carlo. Eia, dimmi Antonio, sei entrato. Eia, ti lascio che sto uscendo con mia sorella. Arrivati, ci sentiamo domani mattina. Cioè domani appena se ci sei, tanto. O domani mattina, domani sera, se senti a baracchino, che la vedi? Domani lavoro di pomeriggio, di mattina però già dovrei essere a casa, nel caso ci sentiamo domani. Domani mattina già accendo comunque. Va bene Mela. Buonanotte, buon tutto Antone. Via. A domani mattina, là. Così faccio accendere i baracchini anche mia sorella, che ce l'ha giù. Così almeno senti anche a lei. Va bene, a domani. Ciao Antone, ciao, buonanotte. Via, ciao.